95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. İtabella bugün birinci yılını kutluyor. Ben ilk bu programı yapmayı düşündüğümde, daha doğrusu artık kesinleştiğinde bunu ilk paylaştığım kişi babam olmuştu. Ve çok sevinmişti. Dört gözle bekliyorum demişti. Ve ben programın kayıtlarına başladığımda hastalandığı bir dönemdi. Ve ilk yayından birkaç gün önce de babamı kaybetmiştim. Maalesef o hiç dinleyemedi bu programları. O yüzden ben bu programı onun dinlemediği geçen seneki her bir programdan bir şarkıya yer verip böyle bir yıllık bir hatırlama gibi değerlendirmek istedim. O vesileyle de şimdi ilk üç programdan üç parçayı arka arkaya dinliyoruz. Fiorella Mannaio'dan E penso a te, ki aslında bu bir Piero Ciampi parçasıdır. Arkasından De André'nin Il testamento di Tito ve sonra Buscaglione'dan Love in Portofino geliyor. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due come noi, non sperano, però si stan cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te, non sono stato divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. Penso a te, non sono stato divertente, penso a te. a te, chiudo gli occhi e penso a te. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. Onora il padre, onora la madre, e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso, perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali, senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Il quinto dice: non devi rubare, e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che avevano rubato. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Il settimo dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatela oggi questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, e un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore, e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi, che hanno una donna e qualcosa. Nei letti degli altri, già caldi d'amore, non ho provato dolore. L'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare t'ha portato a me. So chiudo gli occhi e mi vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino, I found my love. I found my love in Portofino, down in the small Italian bay. And everything was so dear in Portofino, I found my way. The sun was shining that mattina, and so my words were just a few. I closed my eyes and so vicino, Portofino, I still see you. There was a place made just for lovers, the skies and sea and friendly bar. tables and chairs and lazy waiters. A curly boy playing guitar. And when it's night in Portofino, the stars are twinkling up above. I close my eyes and so vicino, in Portofino I found my love. I found my love. I found my love. I found my love. Manoya de Andre ve Buscoglioni radyonuzdaydı. Şimdi iki tane halk şarkısı geliyor. Bir hafta Napolitanlar yapmıştık. Bir de diğer bölgelerin halk şarkılarını dinlemiştik. Öncelikle bir Napolitan olan Angela Luce yorumuyla Atatse Cafe. Arkasından da Roberto Alagna'dan Abayeti, Abayeti. Şimdi Açık Radyo'da. Donna Brigida. Vorrei sapere che si mi dite, facite sempre la faccia amareggiata, ma voi guardate che bella noi che mi avete presentata, i non sacci si vanno accorgita, ma questi modi frigida, tozze caffè parite, sotto trito zucchero e in coppa marasita, ma è tanto caggia putà, e tanto caggia girà, cotto c'è sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà. Donna Brigida, mi fate soffrire. Più tempo passa, più va raffreddata, mi c'è riscaldata caffè squisito. Oh bella e casi pura vaginata, si dà delizia del caffè granita, facendo concorrenza limonata. Ma questi modi Brigida, tozze caffè parite, sotto trito zucchero e in coppa marasite. Ma è tanta caggia va e tanta caggia girà, cotto c'è sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà. Qui si da mamma terra passatore, e io bellezza mia figlia caratare, si voi va divertita a cagnatore, mi faccio carta va senza denare, bella pareglia fosse ma fa amore. Ma questi modi è Brigida, tozze caffè parite, sotto trito zucchero e in coppa marasite. Ma è tanta caccia putà, e tanta caccia girà, cotto c'è sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà. Ma questi modi è Brigida, tozze caffè parite, sotto trito zucchero e in coppa marasite. Ma è tanta caccia putà, e tanta caccia girà, cotto c'è sotto la tazza, fino a mocca ma d'arrivà. Ma è tanta caccia e tanto caccia girà, corso c'è sotto la tazza, fino a bocca ma d'arrivà. Io ballati, femmini schiette e maritati, e sono a ballati, poi io non vi canto e non vi suono. A ballati, femmini schiette e maritati, e se n'ha ballati con io non vi canto e non vi sono. Su, su, su, quando femmini cacci su, cinne quattro scavanzati, ni facemo che patati, cinne quattro maccatelli, ni facemo che pisetti. A ballati, uomini schiette e maritati, e se n'ha ballati con io non vi canto e non vi sono. A ballati, uomini schiette e maritati, e se n'ha ballati con io non vi canto e non vi sono. Su, su, su, quando uomini cacci su, cinque quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ni facemo che mi senti. Bir Napoliton, bir de Sicilya klasiği dinledik. Abbayeti ve Tazze Caffè. Ondan sonraki haftalarda da bir gitmek şarkıları yapmıştık. Bir de Ferzan Özpetek programı yapmıştık. Şimdi Milva ve Alexander Platz, arkasından da Nada'dan Makefredova Açık Radyo'da. Colpo venne il mese di febbraio, faceva freddo in quella casa, mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera, sì sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e mi piaceva spolverare, fare i letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, che aspetta all'angolo come Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Milva Alexander Platz ve Nada Makefra Dofa ile radyonuzdaydı. Sonra iki ayrı programda bir San Remo'ları hatırlamıştık. Arkasından da 80'ler dinlemiştik. Şimdi San Remo programının Toto Cotugno Solo Noi. 80'lerden de Ricky Poveri'nin Sara Perché Ti Amo. Şimdi Açık Radyo'da. Bene con te e mi diceva tu sei tutto per me, se non è amore dimmelo tu cos'è. Si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, solo noi. Il respiro di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tremi con me, solo noi, solo noi. Le montagne se vuoi, solo noi, solo noi. Prati verdi se vuoi, solo noi, solo noi. Dimmi che non sai stare da sola un minuto se non sei con me. Odio l'aurora, ora che non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu cos'è. Ti penso ancora, ma tu non sei con me. Solo noi, solo noi. Dimmi che amore è. Solo noi, solo noi. La mia mente dov'è? Solo noi, solo noi. Odio queste lenzuola. Solo noi, prati verdi non vuoi. che siamo. Che confusione, sarà perché ti amo. '80'lerden Toto Cutugno ve Ricky Poveri bizlerleydi. Şimdi Kadınlar Günü 30'lar ve 25 Nisan 1 Mayıs programından 3 parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Quartetto Cetra'dan Donna, sonra Milli'den Ram Pam Pam, arkasından da Giovanna Daffini'den Sur Padrona da Libelli Braghi Bianchi dinliyoruz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Donna, tutto si fa per te, tutto pur di piacere a te, tutto per un sorriso, per un sì. No. La la la perché sei donna, gioia di vivere, donna, favola splendida. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama amor. Bum bum bum donna. Tutto si fa per te, tutto, pur di piacere a te, tutto, e per un sorriso, per un sì, per un no, per te. Perché sei donna, nata per farti amar, donna, nata per dormire. Sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ognuno prender può il cuore per un piacere. ti prenderà di sacco il rampazzà. Preghi bianchi, fer li palanchi, fer li palanchi, sur padron dali belli, preghi bianchi, fer li palanchi, canduma ha. A scusa sur padron, salem fatribuler, era li premi volti, a scusa sur padron, salem fatribuler. Era i premi volti senza un come fer. Sur padron dali belli preghi bianchi, ferali palanchi, ferali palanchi. Sur padron dali belli preghi bianchi, ferali palanchi, canduma can. Prema arrancao, me pa dopo assiancao, me adescalem tot via, e adescalem tot via. Prema arrancao, me pa dopo assiancao, ed escalom tot via, il salute me pondem via. Sur padron dali belli preghi bianchi, fer li palanchi, sur padron dali belli preghi bianchi, fer li palanchi, canduma ca. Non va più a mesi e nemmeno settimane, la va a pochi giorni, la va a pochi giorni. E non va più a mesi e nemmeno settimane, la va a pochi giorni e poi dopo andiamo qua. Sur padron dali belli preghi bianchi, ferali palanchi, sur padron dali belli preghi bianchi, ferali palanchi, canduma ca. E non va più a mesi e nemmeno settimane, la va a poche ore, la va a poche ore. E non va più a mesi e nemmeno settimane, la va a poche ore, poi dopo andiamo qua. Sur padron dali belli preghi bianchi, fuori cal palanchi, fuori cal palanchi. Sur padron dali belli preghi bianchi, fuori cal palanchi, canduma ca. Quando al treno scefla e mondena la stazione, con la casetta in spalla, con la casetta in spalla. E quando al treno scefla e mondena la stazione, con la casetta in spalla, su e giù per i vagoni. Sur padron dali belli preghi bianchi, fuori cal palanchi, fuori cal palanchi. Sur padron dali belli preghi bianchi, fuori cal palanchi, canduma ca. Quartetto Cetra, Milli ve Giovanna Dafini dinledik. Şimdi Mafya programı ve arkasından da Caposella'yı dinleyeceğiz. El Domingo, Drangheta Camorra e Mafya diyecek. Caposella'dan da Che cos'è l'amor, şimdi Itabella'da. Nella notte d'un tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzzo a Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru. 21 anni lavoraru sotto terra per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali. E sti regoli di sangue e d'omertà, da patria a figlio si li tramandaru. Sti leggi di la società, peggi musigni un ta storia da saru. Drangheta, camurra e mafia è società organizzata. Drangheta, camurra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria onorata. La mattina a mezzo di lumari, na barchicetta vitti navigari, cinque veli e sette marinari, uno di chisti me vosi domandari. Giovanotto dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia, sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue trovamo per la via, e me portaro a mezzo di lumari, tani soletta in omo favignana, ho genti tutti chi stati a scutari, chi sta in a terra vicina e assai lontana. Drangheta, camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà. Drangheta, camurra e mafia, ecco sgarra nuda pietà. Dan c'era nu castello cu tre stanzi, ondi la prima puzzava infamità. Tre cucci sangue da seconda non ci trovai, mentre in da terza nu corpo in società. Degni e meritevoli fu arreconosciuto, sotto all'arbero una scienza battiato. Onorato circolo, a tutti vi saluto, fino alla morte a voi subvincolato. Io faccio l'uomo per sangue e ponuri, e vi scacciare l'infamia e tradituri. Niente perdono e nuda pietà, chi stu m'imponi stu corpo e società. Drangheta, camurra e mafia è società organizzata. Drangheta, camurra e mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. El Domingo ve Capasola Radyonuz'daydı. İtabella'da bu hafta az laf, çok müzik vardı. Çünkü bir önceki yılın bir hatırlatma turuydu bu program. Yeni yayın dönemi ve yeni programlar için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki haftalarda görüşürüz. Ben Cansın Sayesen, Paola Conte, Gong Oh'la kapatıyoruz. Hoşçakalın. Una matita si rovescia anche il capo, lo sento che lui è già qui nei paraggi intorno, qui c'è Gongo che è arrivato, Gongo, Gongo, spirito lontano, vieni nella notte blu a far di me in mano tua. Sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu, conversiamo come faccio, vuoi tu dirmelo? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarmelo? Il pubblico va bene, ma io e te siamo due grandi artisti, insieme diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico è per me, sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami Harlem con due, il fantasma di cinque. Io tondolo, io gongolo. giocattolo. È quasi l'alba, è fuori rosa, adesso è il blu, che silenzio, un po' di sonno è un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, un incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo, perché quando arrivi tu, io rotolo, mi srotolo e mi arrotolo.